Assemblea On Air, il settimanale dell'Emilia Romagna. Benvenuti ad Assemblea On Air, il settimanale dell'Emilia Romagna che racconta le attività dell'Assemblea Legislativa Regionale. In studio Isabella Scandaletti e Margherita Giacchi. In questa puntata la programmazione dei fondi europei per l'agricoltura, incidenti sul lavoro e sicurezza, la nuova legge per valorizzare i carnevali storici. Ma partiamo con una notizia di economia. La Regione aumenta la propria partecipazione azionaria in Bologna Fiere con un'ulteriore quota di 2,5 milioni di euro. Con una nuova legge, l'Assemblea Legislativa ha dato il via all'aumento di capitale nell'Expo bolognese. L'intervento si inserisce all'interno del piano industriale 2022-2026, presentato dalla società che gestisce il quartiere fieristico, che prevede investimenti per 46 milioni di euro nei prossimi 5 anni. Ecco cosa ha detto ai nostri microfoni Stefano Cagliandro del Partito Democratico. Con questo provvedimento siamo riusciti nell'intento di rilanciare il quartiere fieristico di Bologna, che rappresenta un modello di attrattività sia commerciale che di occasioni di lavoro. Un modello che cercherà di essere utile non soltanto alla Regione Emilia-Romagna, ma anche a tutte le fiere nazionali. L'obiettivo è quello di promuovere nuove occasioni, continuare la nostra internazionalizzazione, ma soprattutto avere una grande sensibilità ambientale, perché abbiamo approvato anche un ordine del giorno che tutela sia i lavoratori, ma soprattutto la transizione energetica per promuovere una grande comunità energetica insieme al Tecnopolo. Voto convinto anche dalla Lega, che tuttavia chiede maggiore chiarezza sui futuri investimenti che riguarderanno le infrastrutture nella parte nord di Bologna. Abbiamo raccolto il commento di Michele Facci. Il gruppo Lega in Regione ha votato convintamente questo aumento di capitale di Bologna Fiere, un asset strategico a livello nazionale e internazionale, dà liquidità in un momento di necessità di rilancio di un piano industriale molto ambizioso. Abbiamo però notato come vi sia ancora poca chiarezza su quello che saranno gli investimenti a livello infrastrutturale, quale sarà l'espansione al nord della città di Bologna. Sostegno anche dal Movimento 5 Stelle, che ha ribadito l'importanza di investire per la riqualificazione energetica e per la stabilizzazione del personale precario. La capogruppo Silvia Piccinini. Siamo favorevoli all'aumento di capitale, se a fronte c'è anche una riqualificazione oltre insomma delle attività anche del quartiere fieristico, dopodiché ad un nuovo piano industriale, quindi a una riqualificazione in termini più complessivi, deve anche seguire un'attenzione verso il personale, in particolar modo al personale precario che chiede di essere stabilizzato. Secondo Marco Lisei di Fratelli d'Italia, il provvedimento conferma il fallimento del progetto di fusione tra le fiere di Bologna e Rimini. Invece di potenziare due poli fieristici importanti e strategici per la regione, questi due poli siano stati oggetto di logiche politiche spartitorie e anche territoriali, di scontri importanti tra i sindaci, quando invece avrebbero dovuto essere potenziati entrambi. E ora parliamo di un altro comparto fondamentale per l'economia regionale, il Made in Italy, come quello dell'agroalimentare. L'Assemblea Legislativa ha dato il via al documento collegato al piano di sviluppo rurale che definisce le risorse da destinare ad imprese del settore per il prossimo quinquennio. Oltre 913 milioni di euro complessivi, di cui 162,5 di fondi regionali. Si tratta della cifra più alta mai assegnata, con 132 milioni in più rispetto alla precedente programmazione. Matteo Daffadà del Partito Democratico ci spiega i principali obiettivi. Credo che sia un importante provvedimento di equilibrio territoriale. La Regione Emilia-Romagna ha forte vocazione agricola su tutto il territorio, dal Poggio agli Appennini, da Piacenza a Rimini, e credo che con questi interventi si dà una grande risposta a tutto il territorio e a tutte le aziende agricole e zootecniche del territorio dell'Emilia-Romagna. Per la competitività ci sono 230 milioni di euro, circa 400 milioni vanno invece per la sostenibilità ambientale. Si punta sulle produzioni biologiche, sulla riduzione delle emissioni inquinanti e sulla ottimizzazione della risorsa idrica. 149 milioni sono destinati allo sviluppo dei territori e all'ingresso dei giovani in agricoltura, mentre altri 51 milioni sono rivolti all'innovazione e alla transizione digitale. Sostegno al provvedimento da Silvia Zamboni di Europa Verde. Abbiamo votato a favore perché ci sono anche elementi che vengono accolti da risoluzioni che erano state presentate da Europa Verde, approvate dall'Assemblea, come quelle a favore del benessere animale, che è anche un modo per evitare un uso massiccio di antibiotici nei mega allevamenti intensivi, e quelli che riguardano la riduzione del glifosato e quelli che vanno a sostegno dei distretti del biologico. Astensione definita costruttiva da parte della Lega. Ci spiega il perché Fabio Rainieri. Sono soldi importanti per il mondo agricolo, sono soldi che però non sono sufficienti per le varie problematiche che anche in questi ultimi mesi si sono purtroppo verificate nel nostro paese. È un provvedimento importante sul quale noi ci siamo astenuti, ma non è un'astensione, come ho dichiarato nella dichiarazione di voto, è un'astensione costruttiva. E adesso parliamo di cultura e tradizioni. L'Assemblea legislativa ha approvato una legge sui carnevali storici dell'Emilia-Romagna. Per valorizzare adeguatamente questo tipo di manifestazioni storiche del territorio si potrà contare su un contributo regionale. Ecco cosa ci ha detto Roberta Mori del Partito Democratico. La partecipazione dei territori alla stesura del progetto di legge e anche all'integrazione e al miglioramento è fondamentale, anche perché il volontariato locale, la partecipazione dei cittadini e delle cittadine alle manifestazioni carnevalesche e alla costruzione proprio di questi momenti di socialità sono fondamentali. E allora la legge vuole essere, sì certo, una legge di valorizzazione dei carnevali storici, ma soprattutto delle comunità locali che ne sono le protagoniste vere. La legge è stata approvata a maggioranza. Dalla Lega voto di astensione dopo la bocciatura degli emendamenti che chiedevano un coinvolgimento maggiore dell'Assemblea. Così ci ha spiegato Massimiliano Pompignoli. Benvengano i contributi ai carnevali storici. Questo è quello che noi abbiamo sostenuto durante questo progetto di legge. Il problema fondamentale, ed è motivo anche della nostra astensione, è che questi contributi verranno gestiti solo dalla Giunta senza passare in Assemblea. E adesso parliamo di lavoro e sicurezza. Nel 2021 in Emilia-Romagna sono state 110 le persone che hanno perso la vita sul lavoro. Nello stesso anno si sono registrati oltre 74.000 infortuni. I dati sono stati riferiti in assemblea dall'assessore regionale Vincenzo Colla, che ha anche indicato le linee strategiche lungo le quali la regione intende muoversi. Monitoraggio dei luoghi di lavoro, formazione e più controlli a partire dal settore dell'edilizia. Su questi dati, che denunciano un fenomeno preoccupante, si è aperto il dibattito in aula. Secondo la Lega, gli alti numeri di incidenti sul lavoro indicano che forse i fondi regionali non sono stati indirizzati in modo efficace. Per Emilia Romagna Coraggiosa è fondamentale puntare sul lavoro di qualità. Sentiamo il capogruppo Igor Taruffi. Nella scorsa legislatura abbiamo affrontato il tema delle cooperative spurie con un'apposita commissione, avevamo anche presentato un progetto di legge alle Camere. Io credo che sia indispensabile un'iniziativa legislativa sia nazionale che regionale sul tema, perché, ripeto, anche l'Emilia Romagna e anche in questa regione si sono verificati, si verificano episodi di sfruttamento nei confronti di lavoratrici e lavoratori che sono intollerabili, così come è intollerabile il numero di persone che muore ogni giorno sui luoghi di lavoro. Andiamo adesso ad approfondire alcuni dei temi al centro dei Question Time. Sulle possibili soluzioni in campo per ridurre il caro energia hanno presentato due distinti atti Giancarlo Tagliaferri di Fratelli d'Italia e Valentina Castaldini di Forza Italia. Sentiamo cosa ha detto Castaldini. A breve sindaci, cittadini, imprenditori cominceranno a chiedere a noi soluzioni, noi dobbiamo dare un quadro generale di quello che accadrà. In particolare comunità energetiche tutto quello che in questo momento si sta discutendo nell'Assemblea legislativa. Sulla presenza dei volontari negli ospedali dopo le restrizioni dovute al Covid ha invece chiesto delucidazioni Stefania Bondavalli della lista Bonaccini. I criteri ci sono, nel senso che si può entrare con una certificazione verde e purtroppo non vengono, diciamo così, concretizzati in tutte le aziende sanitarie nello stesso modo in maniera omogenea. La Regione vigilerà da questo punto di vista, riconoscendo naturalmente il ruolo e il valore del volontariato per le nostre comunità in un'ottica quindi di continuo confronto. Giulia Gibertoni del gruppo Misto ha interrogato la Giunta sulla questione delle colonie di daini nelle zone di Lido di Classe e Lido di Volano, chiedendo di risolvere il problema con soluzioni ecologiche. Serve l'umiltà di studiare la questione meglio di come è stato fatto finora dalla Giunta, perché tutto si può risolvere con soluzioni ecologiche senza massacrare animali innocenti e senza spingere il bottone del macello come loro continuano a voler fare. Siamo al termine della nostra puntata. Per rimanere aggiornati sulle attività dell'Assemblea legislativa, seguiteci sui profili social e sul sito assemblea.emr.it. Assemblea On Air, il settimanale dell'Emilia Romagna, programma a cura del Servizio Informazione e Comunicazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna. In redazione Margherita Giacchi, Andrea Perini e Isabella Scandaletti. Contributi audio di Davide Landi, Agenzia Dire, direttore Mauro Sarti.